get a good feeling, yeah. Yeah. Welcome to the world. I know she turned. Il coordinamento lesbiche romane presenta. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Buonasera a tutte, siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Questa sera, come ogni buon martedì, abbiamo un piccolo déjà vu, nel senso, sì, sono sparite le nostre sigle, io le metto e saltano, quindi ve lo dico io, siete sempre all'ascolto delle compagne del CLR e questa sarà la 271esima trasmissione e ora bisogna prendere il lato positivo, avremo più tempo per chiacchierare perché questa sera abbiamo due ospiti molto interessanti e quindi passo la parola a Lucilla. Allora, buonasera a tutte, come vi ha detto Manuela siamo alla nostra 271esima trasmissione e stasera vi parleremo di... Che c'è? Non ti sento bene Lucilla, ma mi senti? Non in cuffia credo, scusate un secondo, è acceso il microfono? Vediamo? Ora mi senti? No, questa sera saremo noi elettriche, il mio funziona? Quello ora funziona. Questo funziona. Allora, ritorniamo. Avete avuto un momento di silenzio e stasera si sentiva va così. Piano, però si sentiva. Allora, si sentiva poco. Ripetiamo: siamo in studio, abbiamo due ospiti. Stasera vi parleremo di una campagna che c'è in questo momento in Italia, il cui titolo è Il buon medico non obietta ed è sullo stato della legge 194 in Italia. Abbiamo due ospiti per noi graditissime, una è Cinzia Visciano, coordinatrice del Circolo UAR di Roma e l'altra è Elisabetta Canitano di Vita di Donna. Elisabetta peraltro è anche ginecologa, quindi poi diremo con loro, affronteremo vari temi. La cosa che ci interessa dire, perché noi come Coordinamento Lesbiche Romane ci interessiamo della situazione della 194 in Italia, dell'applicazione della legge o della non applicazione della legge, se per meglio dire, è perché come lesbiche siamo interessate all'autodeterminazione delle donne e quindi, siccome lo Stato italiano non garantisce la possibilità di utilizzare nel giusto modo le leggi, quindi affinché le leggi siano osservate e quindi esplicitate e rese possibili, ecco, allora noi ci interessiamo di questo aspetto. Senza andare tanto per le lunghe, vi facciamo sentire un pezzo musicale e poi entriamo nel cuore dei problemi. E direi di iniziare con Janis Joplin, Cry Baby. Thank you. Allora, buonasera a tutte, io sono Stefania del CLR e come dicevamo vi parliamo della campagna Il Buon Medico Nobietta. Questa campagna è stata lanciata dalla Consulta di Bioetica a cui varie associazioni hanno aderito, tra cui appunto la UAR e Vita di Donna. Allora Cinzia, prima di tutto spiegaci, perché a noi del CLR in particolare ci interessa, la tua associazione, che cos'è e di cosa si occupa la UAR? Allora, molto sinteticamente, iniziamo dall'acronimo, cioè l'UAR è l'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti. Come dice appunto il nome stesso, è un'associazione che raccoglie gli atei e gli agnostici, diciamo che probabilmente è l'unica associazione che tutela i diritti degli atei, nasce quindi principalmente per questo, per la tutela dei diritti degli atei e degli agnostici. E i suoi scopi sono, oltre appunto alla tutela degli atei, quelli di difendere e affermare la laicità dello Stato e promuovere tutte quelle concezioni del mondo che non sono religiose. Ovviamente è un impegno insomma molto grande, agiamo su più fronti. Io sono la coordinatrice del Circolo di Roma. E, come circolo abbiamo aderito a questa campagna, ma anche proprio l'UAR come associazione nazionale ha aderito alla campagna. E, noi abbiamo lavorato, cioè lavoriamo come dicevo su più fronti, tra cui anche la difesa dell'autodeterminazione dei diritti delle donne. In questo senso ci siamo mossi, quindi a difesa anche della 194, della legge 194. Senti, una curiosità nostra, sei la prima coordinatrice donna del Circolo di Roma? Allora, del Circolo di Roma sì, sono la prima coordinatrice donna, diciamo che il numero delle donne all'interno del circolo è un po' inferiore a quello degli uomini, il rapporto è di circa 1 a 5, cioè le donne sono praticamente un quinto di tutti gli iscritti, siamo ancora un po' pochine e quindi è abbastanza naturale che sia stata io la prima donna, nel senso che non c'erano molte donne, prima l'hanno fatto sempre gli uomini. Ora è una cosa che a me fa molto piacere, insomma, questo sicuramente mi fa molto piacere e mi porto anche una responsabilità in più rispetto a questo. Ci tengo molto a un tema che secondo me è fondamentale, cioè quello di donne e ateismo. Non a caso, appena mi sono avvicinata a lui, era una delle prime cose che avevo provato a organizzare, era una riunione di sole donne, dove appunto si parlava della donna. Volevo parlare della donna atea, no? Un confronto tra donne. Il titolo della serata era un po' particolare, no? Era la donna atea come superamento dialettico della dicotomia santa puttana, praticamente questo era, perché in realtà è esattamente questo il mio pensiero, cioè che la donna atea, quindi una donna libera che si autodetermina, è proprio il superamento del ruolo a cui le donne storicamente sono state relegate, no? Quindi dalle religioni, in particolare qui in Italia dalla Chiesa Cattolica, se pensiamo a tutti i monoteismi, la donna comunque è sempre in secondo piano, comunque è sempre stata assoggettata e sempre dietro l'uomo comunque. Ok, allora Cinzia si è presentata, a questo punto chiediamo a Elisabetta qualcosa che è inerente e al suo lavoro per Vita di Donna e al suo stare nell'associazione Vita di Donna e al suo lavoro, alla specificità della professione che ha scelto. E andiamo subito al cuore del problema, se posso. e la domanda che ti facciamo, intanto, che cos'è l'obiezione di coscienza, almeno nell'ambito di cui stiamo parlando? Allora, l'obiezione di coscienza è un articolo della legge 194, cioè la legge che nel 1978 istituisce l'aborto come una possibilità che le donne possono richiedere nei primi 90 giorni. L'obiezione di coscienza è l'articolo della legge che consente ai medici che lavorano in servizi dove si eseguono interruzioni di gravidanza di non partecipare al procedimento di interruzione di gravidanza. E questo articolo scatenò all'inizio, nel 1978, una marea di obiezioni, perché il tentativo fu fino da subito quello di provocare la non applicabilità della legge. E quindi nel 78 furono invitati a obiettare i cuochi, gli infermieri, i portantini, cioè tutti quelli che ruotavano anche intorno all'assistenza. A posteriori, poi nel tempo, è stato sancito legalmente che è mancata assistenza per chi non partecipa direttamente all'intervento, quindi diciamo l'autorizzazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza si è limitata e ristretta ai medici e al personale che esegue direttamente l'interruzione della gravidanza. Allora, stasera abbiamo pure un microfono solo, almeno noi siamo riusciti a far funzionarne uno solo e quindi ce lo stiamo passando. E, allora, la domanda che a questo punto sorge spontanea, no? Adesso ci sono stati più articoli di giornali da quest'estate in poi, diciamo, si è riacceso l'interesse intorno a questa vicenda, e cioè all'obiezione di coscienza e allo stato dell'arte, e cioè dell'applicazione della 194 in Italia. Quindi la domanda che noi vogliamo fare a questo punto a tutte e due è come mai, cioè, una legge dello Stato italiano, come stava introducendo prima Elisabetta, una legge dello Stato italiano oggi ancora contiene una norma, cioè come quella dell'obiezione di coscienza, e quando l'obiezione di coscienza in sé è un atto, come dicevamo prima fuori trasmissione, di disobbedienza civile che altre categorie hanno pagato e continuano a pagare, perché si ricordava prima che se io volessi non pagare le spese militari, perché sono antimilitarista, quindi non voglio pagare le tasse per le spese militari, invece mi toccano. Oppure io come donna, siccome ci sono meno donne nelle prigioni, nelle patrie galere di quanti uomini, vorrei avere una riduzione sulle tasse, no? E invece pago le stesse tasse, equamente, anzi iniquamente distribuite. Come mai ancora questa norma è in vigore, e quindi perché, che cosa succede, perché su altre vicende ci si comporta in maniera diversa? Chi non paga le tasse per gli armamenti subisce il pignoramento dei propri beni, mobili e immobili, come si diceva prima, e invece per quello che riguarda i medici, loro possono permettersi di continuare ad obiettare, sapendo bene che se fanno un concorso pubblico e lavorano presso un servizio pubblico, devono dare l'assistenza e devono dar corso all'applicazione di una legge. Allora, insomma, la domanda è molto aperta e quindi vi chiediamo una risposta a tutte e due. Stefania, vuoi dire? Sì. Tratto da questo articolo di Informare per Resistere, che è uscito il 3 agosto del 2012, ancora oggi chi ha svolto regolare servizio civile prima del 2004, anno in cui la leva obbligatoria è stata abolita, non può tuttora avere accesso a quei posti pubblici che prevedono l'uso delle armi. Ecco, quindi in questo caso chi fa obiezione di coscienza, diciamo, è vessato dallo Stato italiano. Ecco, basta, solo questo volevo aggiungere. Sì, allora, diciamo che la legge è intatta dal 1978 E in realtà alla fine è stato comunque sempre detto che era meglio non rimetterci mano. E quindi l'articolo, che in origine era un articolo che serviva a chi stava già negli ospedali per non essere costretto a fare una cosa che non voleva fare, non avrebbe più senso di esistere nel momento in cui, questa è una legge dello Stato, chi prende lo stipendio dallo Stato lo prende anche per applicare le leggi dello Stato medesimo. Perché se io vado, cioè se il mio datore di lavoro dice che si devono fare delle cose, normalmente quando mi dà lo stipendio mi paga perché io faccia le cose che lui dice. Quindi diciamo che nel tempo l'articolo dovrebbe essere diventato obsoleto. Il motivo per cui non lo diventa è che in realtà questa, che è una legge che è stata confermata da un referendum nazionale che a grande maggioranza ne ha preteso il rispetto. Ricordiamo che il referendum è stato lanciato per abrogarla, la legge, sì, sì. E che invece gli italiani l'hanno difesa. Quindi non soltanto è una legge del Parlamento, ma è una legge che i cittadini hanno votato. Questa legge in realtà viene esposta regolarmente a degli attacchi, che sono sia attacchi frontali, adesso a Reggio Emilia distribuiscono di nuovo un volantino per rilanciare un referendum di abrogazione, sia però a degli attacchi, diciamo, sotterranei, nel senso che poi quello che si cerca di fare da parte della gerarchia cattolica che si oppone all'applicazione della legge è esattamente quello di allargare l'obiezione di coscienza fino al punto da rendere la legge inapplicabile, e quindi di lasciare l'applicazione della legge, cioè di far sì che non sia lo Stato a difendere la propria legge, ma che in qualche modo la difesa sia una specie di volontariato, per cui gli operatori che lavorano nel servizio pubblico e che applicano la 194 tutte le mattine quando vanno a lavorare tirano su la saracinesca e proteggono la legge in proprio, litigando, discutendo, esponendosi, mentre il servizio pubblico nicchia, latita, fa il vago e quindi di fondo poi non applica una legge dello Stato e non difende la salute delle donne. Ecco, io invece vorrei proseguire sottolineando l'uso strumentale e ideologico dell'articolo 9, cioè il fatto che l'articolo 9 sia ancora in piedi e così come viene applicato è una sorta di baciamo le mani alla Chiesa Cattolica, no? Allora, siccome le donne avevano difeso strenuamente la 194, tant'è che è stata una legge voluta, no? Cioè proprio dalle donne e dagli uomini, soprattutto dalle donne perché le interessava in prima persona, quello che si è tentato di fare è di svuotare questa legge aggirandola. Quindi l'articolo 9, il fatto che sussista ancora, è proprio l'espressione chiara, cioè del servilismo politico al Vaticano, perché non c'è un'altra spiegazione rispetto a questo, perché obiezione di coscienza, già la parola, no? Cioè, come dicevamo prima, cioè obiettare, no? Ci sono due parole, cioè obiettare a qualcosa, quindi a una legge, cioè la mia coscienza mi impone di non aderire a qualcosa, ebbene in coscienza dopo dovresti avere qualcosa di contrario, quindi una punizione, no? Nasceva col servizio di leva, eccetera, eccetera, che era obbligatorio, per cui si era costretti al servizio di leva, alla vita militare, e si faceva obiezione di coscienza. Oggi cosa accade? Siamo praticamente al parossismo, cioè obiezione di coscienza e vieni promosso, perché diciamocelo chiaramente, cioè i medici che sono obiettori hanno possibilità di fare carriera all'interno degli ospedali, mentre quei pochi che non sono obiettori vengono relegati a fare lavori molto più duri e più pesanti e non hanno possibilità di carriera. In alcune regioni i medici sono stati tolti, cioè i medici non obiettori, pensiamo a quello che è accaduto in Lombardia con Formigoni, cioè ci sono delle cioè una situazione gravissima sulla quale l'attenzione c'è stata soltanto negli ultimi tempi e ancora è poca. Io direi a questo punto di fare un piccolo stacco musicale, quindi ci ascoltiamo Lucinda Williams con Tears of Joy. I paid the cost. I've been a mess, misguided and lost. But I've been so blessed since our paths have crossed. That's why I'm crying tears of joy in my own little world. Since I was 16, little Miss Playgirl, making a scene. Then you took this girl and you made her your queen. That's why I'm crying tears of joy. Play games with my boyfriends, fashion and fame, hip little trends. Eccoci qui. Dunque, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17, ovviamente tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'iconcina in diretta e sarete subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 1750 fino alle 22 oppure alla Casa Internazionale delle Donne scrivendo a CLR presso Casa Internazionale della Donna via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E ora prendete carta e penna, torniamo ai vecchi metodi, e segnatevi questi indirizzi. La nostra mail, contatti@clrbp.it, oppure il nostro sito www.clrbp.it, oppure il cellulare al quale potete inviare i vostri sms, possibilmente anche stasera, ma li vedremo domani perché ce lo siamo dimenticato. Comunque 339 85 36270. Vi ricordiamo inoltre che avete la possibilità di riascoltare, questo sì che è importante, le nostre trasmissioni andando su http://mfla.noblogs.org/. Io ve l'avevo detto di prendere carta e penna, però, cliccando è una calamità. Dalla barra a destra verrà visualizzato lo spazio che le donne del martedì hanno messo a nostra disposizione, dove sono disponibili gran parte delle nostre trasmissioni. Il CLR ha anche un profilo Facebook, ci siamo modernizzate, e potete cercarlo al CLR Contatti Donna. Se chiedete la nostra amicizia, noi saremo ben lieti di darvela. E così sarai costantemente informata sulle nostre iniziative. Ripetiamo il telefono della radio molto rapidamente, che il tempo stringe: 06 49 17 50 ed il cellulare 339 85 36 270. Detto ciò, ripasso la parola alla nostra Lucillina. Allora, detto questo, che era d'obbligo, vogliamo chiedere qualcosa intorno alle attività delle associazioni che le donne che sono qui con noi stasera diciamo rappresentano, comunque delle quali fanno parte. Quindi e sia l'OAR che anche la vita di donna, quali sono le attività in cui siete coinvolte, quelle cose che state facendo adesso, rapidamente, perché poi torneremo a bomba a parlare della campagna del Buon Medico Non Obietta. Cinzia, ci vuoi dire qualcosa? E poi Elisabetta. Sull'UAR. Allora, intanto l'UAR si occupa di laicità su vari fronti. Uno aperto e su cui siamo sempre in prima linea è l'IRC, cioè l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, o meglio, abbiamo uno sportello in cui è possibile, a cui è possibile rivolgersi per cercare di aiutare i genitori in difficoltà, cioè far rispettare l'ora alternativa che dovrebbe essere svolta dentro le scuole. Molto spesso questa cosa viene tralasciata. Anche qui ci sarebbe un capitolo enorme, veramente quella enorme. Quella sì che sarebbe un'obiezione di coscienza. Quella sarebbe un'obiezione di coscienza, diciamo, nel senso più reale del termine. La religione cattolica nelle scuole, la religione non dovrebbe entrare, no? Parliamo di scuola, cioè. Di educazione, cioè non c'entra, no? Cioè è possibile andare da altre parti se si vuole un'educazione religiosa. Ultimamente io e altri soci, come Circolo di Roma, ci stiamo impegnando per la MNC, cioè l'assistenza morale non confessionale, cioè l'UAR. Sono reduce proprio da un corso che abbiamo fatto pochi giorni fa, cioè a Torino è già attiva un servizio di assistenza per i non credenti, di assistenza morale, cioè per i pazienti di alcuni ospedali, le Molinette, il CTO di Torino, è già attivo anche a Milano, per i pazienti atei, agnostici, o anche per pazienti credenti che desiderano parlare con qualcuno della nostra associazione per essere aiutati in un momento, diciamo, di sofferenza, possono rivolgersi anche a noi. A Roma stiamo tentando di far partire questo progetto al San Camillo Forlanini. Stiamo chiedendo che la nostra confessione non religiosa, cioè nel senso rientriamo in una concezione del mondo, quindi l'ateismo è comunque una concezione filosofica, no? Certo. Una concezione del mondo sia equiparata le altre confessioni religiose, nel senso che con gli stessi diritti, diciamo. Sarà ora possibile, per esempio, al San Camillo Forlanini, per un musulmano ricoverato, chiedere l'assistenza spirituale di un rappresentante, sì, o comunque di un rappresentante musulmano, no, dell'Islam. Se questo vale per l'Islam, per gli ebrei, per una serie di religioni, gli atei non sono ancora rappresentati da questo punto di vista, no? Quindi si parla proprio di una grossa discriminazione. Questo per dire alcune cose. Saremo domenica 4 al Mario Mieli, siamo stati invitati per una presentazione di un libro, parleremo delle terapie riparative, perché esistono psicologi, sedicenti psicologi comunque iscritti all'albo, i quali sostengono che l'omosessualità è una cosa che va curata e fanno psicoterapie per curare l'omosessualità. Sono psicologi conniventi appunto con l'ideologia cattolica e fanno dei danni enormi, è inutile starlo a dire, e quindi per esempio siamo impegnati anche su questo fronte. Quindi ce ne sono varie, per ora mi fermo perché sennò non finiamo più. Passiamo la parola alla dottoressa. Allora, noi come vita di donna facciamo una cosa che io amo definire spesso lo stato che non c'è, perché noi facciamo informazione indipendente, totalmente gratuita, dalla parte delle donne per la libertà di scelta tramite il sito che è www.vitadidonna.it. Abbiamo anche noi una pagina Facebook, Associazione Vita di Donna Onlus, e abbiamo anche un telefono che io do, se avete ancora la carta e penna di prima, che se no lo trovate sul sito, che è 333-98-56046, 333-98-56046. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19, anche i giorni festivi, a Natale, a Capodanno, e facciamo un servizio fra le varie cose, perché ascoltiamo qualunque problema e per qualunque problema cerchiamo di mettere in contatto le donne con i servizi pubblici che hanno il dovere di rispondere, ma facciamo questo servizio che si chiama SOS pillola del giorno dopo. Perché uno dei problemi dell'obiezione di coscienza, che a un certo punto diventa una specie di malattia contagiosa, perché un conto è l'obiezione di coscienza sull'interruzione di gravidanza, ma in qualche modo questa cosa si estende anche alla contraccezione. Per cui noi abbiamo da una parte consultori e confessionali che dicono che neanche la pillola contraccettiva normale va bene, ma che bisogna controllare il muco e che quello è l'unico modo ammesso per non rimanere incinta. Dall'altra parte abbiamo dei medici che, appellandosi all'obiezione di coscienza, si rifiutano di prescrivere la pillola del giorno dopo, non solo, ma disattendono anche il parere dell'ordine dei medici, il quale dice: va bene, non volete prescrivere, però questa è una vostra sensibilità, voi dovete però non lasciare la donna sola, ma trovare all'interno della vostra struttura un medico che gliela prescriva. E questo non viene fatto, perché di fondo l'obiezione di coscienza, sia sull'interruzione di gravidanza che sulla pillola del giorno dopo, che sulla spirale, perché non viene messa, perché forse potrebbe, però non è la richiesta che venga rispettata una sensibilità personale, ma è l'intenzione di far sì che le donne non possano usufruire di questo sistema. Quindi è un ribaltamento. Cioè non è io non lo faccio perché io non ce la faccio, però tu no, altrimenti noi potremmo arrivare a dire che chi appartiene alla religione Jaini, che rispetta i batteri, non prescrive gli antibiotici. E allora la tua sensibilità non ti farà prescrivere gli antibiotici, ma devi trovare un altro medico. Cambia mestiere. Sì, ma che li prescriva questi cacchio di antibiotici. Cioè ovviamente per estensione andiamo nella pura follia. E quindi già ci siamo, noi, mi permetto. Noi ci siamo, ma quindi noi tramite l'associazione diamo ininterrottamente informazioni e abbiamo dei medici che prescrivono la pillola del giorno dopo nei festivi in parecchi posti d'Italia, certo non dappertutto, però comunque noi collaboriamo sempre. Grazie. Allora, adesso vi diamo qualche dato statistico sulla situazione. Secondo la relazione del Ministero della Salute sull'attuazione della legge 194, che è stata proprio presentata recentemente, il 4 agosto scorso, appunto questa relazione riporta dei dati che sono lampanti, diciamo, sulla situazione. Quindi il 70,7% dei ginecologi del Servizio Pubblico Nazionale è obiettore, quindi è chiaro. Ora, i dati ma gli sono... superi qua non ci sono mai, no? Perché io non avrei dubbi da dove iniziare. Scusate, mi è scappato. Allora, i dati poi variano da regione a regione. Bisogna fare, diciamo, un applauso alla Valle d'Aosta, che risulta avere solo il 18% dei ginecologi obiettori, e quindi è la regione migliore. Però ci sono situazioni allucinanti. ci sono situazioni, diciamo, allucinanti. In Lazio l'80,2%, forse sicuramente l'influenza del Vaticano, ma anche in Veneto il 78%, a Bolzano l'81,3%. Adesso non ve li leggo tutti, però la situazione, per dire, nelle Marche è allucinante. Questi sono dati riportati da Informare per Resistere, ma anche riportati dal Corriere della Sera, diciamo con meno precisione, diciamo. Addirittura però Repubblica, vi faccio solo un accenno, li riporta in modo quasi positivo, dicendo che gli aborti sono diminuiti. Ovviamente, perché se è no. più difficile, se non c'è il medico, non sì. si può abortire, quindi... Intanto prendono come dato il 1982, che è stato l'anno in cui c'è stato un numero di aborti molto elevato, e quindi ovviamente rapportato a quello c'è... E poi c'è questa cosa, appunto, che cioè, non parlano, per esempio, di quanto siano aumentati gli aborti clandestini con per le donne immigrate, no? Cioè, dove la situazione è ancora peggiore. Scusa, e praticamente l'articolo di Repubblica è tutto positivo sulla legge, dicendo che funziona, eccetera, eccetera. Un pezzettino in fondo dice: intanto il numero di ginecologi obiettori aumenta, quindi fa intuire la situazione. Ecco, quindi i dati li abbiamo dati, chiediamo la situazione effettiva, cioè cosa avviene effettivamente negli ospedali. Elisa. Ma cosa avviene? Intanto avviene che i medici che applicano la 194 hanno in qualche modo una tensione personale ad applicarla, cioè c'è un lato quasi di volontariato emotivo molto forte, e questo alcuni dicono che è ineluttabile quando ci si occupa di aborto. Però certo, se lo Stato fosse un po' più garantista di questo diritto, forse anche il volontariato sarebbe meno necessario. E però laddove il volontario fino ai 90 giorni viene sostenuto e portato avanti dagli operatori, perché è una procedura di day hospital, il problema invece è l'aborto terapeutico, perché a fronte di una diagnostica prenatale sempre più spinta, sempre più insistita, svolta anche negli ospedali religiosi dove si fa l'amniocentesi, si fanno tutte queste procedure, poi in realtà le donne che desiderano fare un aborto terapeutico, di fronte anche a gravissimi problemi, ma di fronte a volte anche a problemi incompatibili con la vita, cioè noi, le donne hanno difficoltà a interrompere una gravidanza persino di un feto anencefalo, cioè di un feto senza testa, perché risulta un aborto interrompere una gravidanza di un feto non compatibile con la vita. Ecco, queste sono le donne che hanno sicuramente una maggior difficoltà, e sono quelle che, fra l'altro, voglio dire, questi erano bambini estremamente desiderati. Sono scelte pesanti, sono scelte penose, sono scelte che in paesi come la Francia vengono garantite, per esempio, da una commissione che si chiude con la donna e eventualmente con il compagno, si prende insieme questa decisione e la struttura se li prende in carico. Tant'è vero che noi facciamo del turismo in Francia per poter usufruire della loro legge. E queste donne vengono delle volte esposte, ma esposte addirittura a non rispondere al campanello quando perdono sangue. No. Perché, certo. Ci sono donne che hanno avuto paura di morire durante un terapeutico, perché il medico non obiettore non era di turno e la il personale denuncia, però, così. E il personale salta la stanza. Abbiamo problemi con la terapia antalgica, perché gli anestesisti obiettori non danno la terapia contro il dolore alle donne che fanno il terapeutico, che travagliano urlando nelle nostre stanze e alle quali non si può fare niente perché sono delle ricoverate. Cioè, laddove il volontario fatto in day hospital, fatto nella condizione in cui sono solo i medici non obiettori che si curano di queste donne, che le proteggono, le donne del terapeutico vengono esposte in realtà a delle forme di crudeltà mentale, di violenza, perché questa è violenza. Sono abusi, no? Certo. Grazie. a grazie tutte Elisabetta e questo le cose, la testimonianza che ci sta facendo adesso Elisabetta, che appunto ha una conoscenza stretta degli ospedali perché ci lavora, conferma quello che noi abbiamo detto in apertura della nostra trasmissione, cioè perché siamo qua, perché vogliamo difendere e gridare che le donne si devono e possono autodeterminarsi, che questa è per noi uno degli obiettivi prioritari più importanti. E volevamo lasciare la parola a Cinzia, perché ha qualcosa da dirci proprio sull'articolo 9 e quindi su questo doppia lama, no? Lo possiamo bilama, il bilama articolo 9. Grazie. Volevo dire questo, che non sempre si mette in evidenza una cosa dell'articolo 9, no? Cioè l'articolo 9 consente al medico di esprimere la propria volontà, cioè dichiararsi obiettore. Come lo fa? Cioè lo fa davanti a una donna che sta chiedendo di abortire. Quindi la volontà del medico è quello di non fare il suo lavoro, la volontà della donna è quello di rivolgersi a una struttura pubblica e di chiedere l'applicazione di una legge. Si tratta di due volontà, no? L'articolo 9 protegge, cioè tutela la volontà, tra l'altro, della persona che in quel momento è più forte in termini di potere, perché ha il potere di fare una cosa o di non farla. E questa cosa, che è un po' diciamo che potrebbe essere una problematica più tendente al filosofico che al pratico, però sì, è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, no? Perché quando le donne chiedono, gli viene loro negato un diritto. Questa è una cosa gravissima, cioè l'aborto si può fare per mille motivazioni, no? Che sono assolutamente personali e assolutamente anche insindacabili da chiunque, cioè solo la donna può decidere del proprio corpo. Quindi quello che dicevo prima, che qui si tratta di una battaglia, di una guerra contro le donne ideologica, è una battaglia che però si gioca sul corpo delle donne e sulla sofferenza. A proposito di quello che diceva prima la dottoressa Canitano, pensiamo anche a quanto, per esempio, sia stata ostacolata l'ingresso in Italia della pillola abortiva. Cosa è successo quando guerre su guerre sono state accusate le donne di voler abortire in modo facile prendendosi la pillola e via. Denunciamo che per esempio a Roma l'unico, cioè un solo ospedale che dà esattamente uno solo a Roma, cioè immaginiamoci qual è la situazione in nel resto d'Italia, esatto, nei piccoli paesi eccetera. Tra l'altro anche qui andrebbe sottolineato il fatto che le donne sono obbligate a 3 giorni di ricovero, in altri paesi europei non esiste, cioè un day hospital, se tutto va bene ovviamente, se si può, meno ancora, ecco. Quindi proprio è allucinante questa cosa, no? Cioè ancora, forse sì, la candidata ci vuol dire qualcosa. Sì. In Francia la dà il medico di famiglia. Ecco. Ah, ecco. Cioè il medico di medicina generale collegato con l'ospedale dà il farmaco alla donna, la donna se ne va a casa, se c'ha bisogno chiama l'ospedale oppure ci va, ma non c'è nemmeno il day hospital. E in Svizzera i medici, certo non per soldi ma per denaro, però danno l'RU486, consegnano alla donna il secondo farmaco da prendere, le consentono di ripartire per il suo paese e gli dicono tante care cose. Quindi non fanno neanche il controllo in terza giornata, e sono medici svizzeri, cioè non è che l'ordine dei medici svizzero è una banda di pirati delle Molucche. Questo è l'ordine dei medici svizzeri e della procedura svizzera, e questo ci dà la misura di dove stiamo, ecco. Posso aggiungere un'altra cosa, cioè che una delle tecniche per indurre le donne a non abortire è farle ritornare, cioè la donna va magari al consultorio, cerca e le dicono di tornare con qualche scusa, no? Cioè quindi allungando i tempi. Questa è una cosa gravissima, perché abortire sempre entro il terzo mese, però più si va in là e più diventa pericoloso per la salute della donna. Cioè anche la differenza tra la pillola e l'intervento, cioè anche qui si parla di salute della donna, è chiaro che un intervento invasivo, cioè molto più invasivo, cioè è pericoloso. Io volevo dire una cosa, e questa pressione, c'è cioè una pressione sulle donne che abbiamo avuto sull'RU486 dicendo restano sole, poi dopo chissà piangono a casa, invece in ospedale stanno tanto meglio. E volevo ricordare solo una cosa, che in Francia esiste un blog che si chiama J'ai une IVG et je vais très bien, che vuol dire io ho avuto un IVG e sto benissimo, e che si può anche stare bene dopo un aborto. Un aborto è una cosa dolorosa, una cosa discussa, ma non è detto che segni la vita di una donna in maniera ineluttabile. E se l'RU486 è con ogni probabilità un aborto più facile, meno male. Ecco, meglio, grazie. Allora, possiamo dire che concludiamo questa nostra trasmissione con le ospiti che abbiamo avuto in studio, vivacissime come avete sentito. Ringraziamo Cinzia Visciano e Elisabetta Canitano per essere state con noi e averci parlato della loro esperienza. A proposito dell'ultima cosa che ha detto Elisabetta, si può anche vivere bene, uscire bene da un aborto. Certo, una donna da un aborto, secondo la morale cattolica e comunque maschilista, non esce bene. Dalle botte del marito e magari dalle ferite o gli ammazzamenti, i femminicidi, da quelle esce benissimo, perché esce con i piedi avanti. Cinzia ci vuol dire un'ultima cosa, però devi essere rapidissima perché c'è la trasmissione delle altre compagne. Voglio solo dire questo, che i femminicidi che stanno avvenendo in Italia in questo periodo, non c'è da stupirsi poi più di tanto se la situazione rispetto ai diritti delle donne, per esempio ad aborti, è questa. Cioè c'è un nesso, c'è un collegamento, è inutile che facciamo finta di dire cioè, che succede, se ci siamo impazziti in Italia. C'è un nesso tra i femminicidi e come vengono trattate le donne anche in altri ambiti. Pensiamo alla salute. E alla famiglia. E diciamo al lavoro e a tutto il resto. Noi abbiamo fatto cicli e cicli di trasmissioni proprio sulla problematica delle donne nel mondo, in Italia, nel mondo, eccetera, eccetera. Noi vi ricordiamo che andremo in trasmissione fra 15 giorni, la prossima nostra trasmissione sarà fra 15 giorni, vi invitiamo domenica prossima, 28 ottobre, dalle 10 alla Casa Internazionale delle Donne di Roma per l'Assemblea Nazionale sulla preparazione della manifestazione per il 25 di novembre. E visto che abbiamo tagliato il filo del centesimo femminicidio, sarà il caso, sì, sono 140 l'anno, d'accordo, ce ne mancano 40, speriamo di non raggiungerli, ma intanto abbiamo tagliato il filo del centesimo e siamo appunto al 23 di ottobre. Vi ringraziamo tutte, grazie per le ascoltatrici, grazie per le nostre ospiti. Stefania, vuoi dire qualcosa? Ciao a tutte. Grazie a Stefania, grazie a Lucilla. Quindi io vi saluto. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.